Ma davvero voi due siete pagati per dire queste stupidate tutto il giorno? Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Sono le 9 e 9 minuti, cari ascoltatori, e siamo qui in diretta fino alle 11 con voi, con l'Alpino in regia, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione. Siamo a parlare di tanti argomenti e siccome non c'è solo il Covid, parleremo di cose più pregnanti oggi. I will not be easy and it will not be easy. Allora, intanto vi devo dare un aggiornamento. Mi erano arrivate le notizie da persone che vivono nella zona. È in corso una rapina in banca a Milano, nella zona di Piazza Ascoli. La polizia ha circondato l'agenzia. Siccome ci sono stati, pare, anche degli spari, l'invito ovviamente di evitare la zona, di non andare in quella zona tra Viale Abruzzi, Piazza Ascoli. Chi conosce Milano sa di che zona sto parlando. Diciamo Città Studi, ecco, di evitare perché c'è in corso una rapina in una banca proprio lì a Piazza d'Ascoli. Piazza Ascoli, non ad Ascoli, Milano, Piazza Ascoli. Sono, come dire, momenti molto molto concitati, tutto quello che è successo a Vienna. Io sapete, per tra l'altro, Vienna, i mezzi di informazione, i media austriaci dicono che sono 4 i civili uccisi, ma tra poco ne parleremo. Sapete che io inizio sempre la trasmissione con questa conta che spero di smettere al più presto. Poco fa abbiamo sentito anche la viceministra Marina Sereni ai microfoni di Simone Spezia. Sono 64 giorni, 18 pescatori partiti da Mazara del Vallo sono detenuti di fatto nella Libia del generale Haftar Bengasi. Con noi c'è Fausto Biloslavo, che saluto. Fausto, buongiorno. Buongiorno. Inviato del giornale. Poi parliamo anche un attimo di Vienna. Hai capito intanto perché non ne parla quasi nessuno, Fausto, di questa vicenda? Ma perché è una vicenda fastidiosa che mette in imbarazzo totale il nostro governo ed è un chiaro schiaffo, insomma, in faccia all'Italia da parte del generale Khalifa Haftar, che è il signore non più tanto forte della Cirenaica, ma che comunque, insomma, ha sempre truppe al suo comando. Un signore che, tra l'altro, non dimentichiamoci, lo invitavamo in pompa magna alle conferenze a Palermo, a Roma, eccetera. E poi l'abbiamo snobbato, non andandolo più a trovare. Guarda caso, poche ore dopo i pescatori sono stati sequestrati. Quindi tu dici, potrebbe essere proprio anche legato al fatto che noi riconosciamo il governo di Tripoli e non quello di Haftar. Lo abbiamo snobbato, nel senso, non lo abbiamo, diciamo, diplomaticamente frequentato. Questo è totalmente politico, no? Cioè, non staremo mica pensando che Haftar ha bisogno di qualche soldo di riscatto, di multa, insomma, che dopo comunque serviranno, no? È un sequestro politico. È avvenuto il 1 settembre, il giorno in cui il ministro degli esteri Di Maio era andato in visita in Libia, e per la prima volta, sottolineo la prima volta, si faceva sempre il giro delle sette chiese, no? Delle due più che altro, no? Cioè il governo di Tripoli, Haftar è andato in Cirenaica, ma ha incontrato il rivale politico di Haftar, che è il presidente del Parlamento di Tobruk. Quindi è chiaro che Haftar si è legato al dito, è un personaggio un po' particolare, insomma, ecco, si è legato al dito, guarda caso, poche ore dopo, cioè la sera, il sequestro. C'è stato il sequestro. Allora, Fausto, ti presento Insaf Jamali. Buongiorno, Insaf, grazie di essere qui. Buongiorno. Lei è la figlia di Farhat, sì, spero di pronunciare sì bene, uno dei marinai tunisino, uno dei pescatori tunisini, impiegato sul peschereccio Antartide. Antartide. E voi siete tutti familiari da giorni lì, Piazza Montecitorio, a protestare. Sì, da 44 giorni. Che cosa e 64 chiedete? 64 loro. cosa chiedete? Ovviamente il ritorno dei vostri familiari, ma che risposte sentite dalla politica? Nessuna risposta, non ci danno notizie. E questo silenzio del governo ci fa pensare a male, cioè ci preoccupa moltissimo. Certo. Penso che abbiamo tutto il diritto di sapere anche come stanno i 18 pescatori, anche una chiamata. Ne abbiamo tutto il diritto e questo silenzio ci preoccupa molto, ci fa pensare a male. Ha sentito Fausto Biloslavo spiega che sì. La situazione è complicata perché quella parte di Libia è controllata dalla generale Haftar. Ma a noi non ci interessa cosa fanno sia il governo che la Libia, le loro trattative, noi li vogliamo a casa, ma al più presto possibile, cioè certo. più oggi che domani. Da quanti anni è in Italia suo padre? Mio padre è da 40 anni che è in Italia. Io gliel'ho fatto dire perché sa, molte persone dicono ma sono 8 italiani, 6 tunisini, 2 senegalesi, è vero, ma sono italianissime queste persone. Suo papà è qui da 40 anni. Sì, ed è da più di 35 anni che fa questo lavoro mio padre. Quindi lei è nata in Italia? Io sono nata in Tunisia, ma sono venuta qui in Italia da quando avevo 2 anni. 2 anni. Fausto, come si conclude? Prima di tutto, io vorrei sottolineare tanto di cappello a queste figlie, a queste madri che hanno gli attributi anche più degli uomini, devo dire. Grazie, ma questo non è un sacrificio che facciamo. No, ma ovviamente i pescatori sono 18, sono partiti da Mazara del Vallo, o tornano indietro tutti assieme o non torna nessuno, questo è fuori di dubbio, insomma, guarda, non si fa distinzioni se uno è nato là o da quanti anni in Italia, certo. Sembra evidente. La partita è politica, Fausto, come la si sblocca? Non è che possiamo andare a fare la guerra, qualcuno mi dice mandiamo le navi, dai, su, non scherziamo. Magari le navi dovevamo mandarle prima, dopo possiamo accennare, insomma, no? Ecco, a questo. Però è chiaro che la partita è politica e quindi bisogna in qualche maniera, insomma, prendere il toro per le corna, insomma, quindi trattare con Haftar o fare pressioni su Haftar, ma da una posizione un po' di forza, ecco, perché purtroppo i rapporti in Libia funzionano così. Funzionano un po' di forza. Allora, facciamo così, noi liberiamo e mandiamo un grande abbraccio a Insaf Gemali, a tutti coloro che sentiamo tutti i giorni siete lì. Io spero di non sentirvi più, nel senso che spero... Lo speriamo anche noi, sì. Speriamo grazie. Davvero che la notizia della liberazione possa arrivare al più presto. Fausto, dimmi ancora una cosa, perché qualche dettaglio so che tu hai di quello che è successo. Si è detto erano in acque pericolose, perché la Libia, l'abbiamo spiegato mille volte, ha esteso a 72 miglia la propria zona di interesse prevalente economico, eccetera. Quindi hanno sbagliato qualcosa, non hanno sbagliato? È chiaro che tutti i pescatori, insomma, in Mazara del Vallo sanno che quelle sono acque non facili dove si pesca il gambero rosso, però in egual maniera lo sanno anche la nostra Marina Militare, le nostre squadre navali, cioè io ricordo giusto un piccolo dettaglio, insomma, che abbiamo 4 missioni navali in Mediterraneo, sotto Mediterraneo centrale, che significa 1800 uomini, 10 navi da guerra, un sottomarino, 13 mezzi aerei, spendiamo 131,5 milioni di euro all'anno per queste missioni. Allora, io magari pretenderei che con tutta questa forza navale, dato che esisteva una volta anche la vigilanza pesca, cioè proprio il compito di assicurare, no, il libero esercizio dell'attività di pesca ai nostri pescherecci italiani in acque internazionali, quelle acque sono, insomma, sono dibattute, però dico, è incredibile, no, che da Mazara del Vallo è stato dato l'allarme la sera dopo le 9, no, a Palermo, a Roma, e poi da Roma hanno risposto stiamo intervenendo, possiamo arrivare sul posto in 20 minuti, abbiamo lanciato gli elicotteri, così via, e poi a un certo punto non è arrivato nessuno alle 3:20 del mattino da Roma in collegamento, io cito testualmente quello che mi è stato detto dall'armatore, è arrivata la risposta, in collegamento c'era la nave militare che era in zona, che avrebbe dovuto intervenire, anzi che teoricamente aveva annunciato che stava intervenendo, ci dispiace ma è diventato un caso diplomatico, non possiamo più intervenire. Ma i pescherecci erano ancora in mezzo al mare, certo, con un a 40 miglia, però sai, nel momento in cui arrivano le navi militari libiche, cosa fai? Arrivi lì e fai mai un confronto? Anche questo, è una leggenda questa delle navi militari di Libera, che in realtà era una sorta di poco meno della motovedetta, ma neanche sembra. Insomma, però cosa fai? Arrivi lì, schieri una tua nave e ti confronti? Se sono ancora in alto mare e non sono entrati in porto, lancio gli elicotteri e uso la forza se necessario, o minaccio di usare la forza. Se arrivo con la nave, non c'è il dubbio insomma, che un barchino libico non andrà certo a portarmi via due pescherecci con 18 uomini a bordo. In ogni caso, Fausto, facciamo così, ci sentiamo nei prossimi giorni. Tu oggi giustamente poi sul giornale scrivi di Vienna, che è l'altro grande scenario ancora molto aperto, di cui magari parleremo più avanti nel corso della trasmissione. Io ringrazio Fausto Biloslavo, inviato del giornale, per questa vicenda libica che noi seguiamo tutti i giorni. Do un piccolo aggiornamento. Milano, ripeto, attenzione, in zona Piazza Ascoli, Via d'Abruzzo, è in corso una rapina a un'agenzia di banca, con la polizia che ha circondato l'agenzia. Si parla e si dice anche di alcuni spari che si sono uditi. Mi raccomando, insomma, adesso tutta la zona è bloccata. Comunque evitate, se possibile, la zona di Milano, Piazza Ascoli, in questo momento, perché la situazione non è certamente una situazione semplice. Dicevo, allarghiamo i nostri orizzonti. Io faccio solo questo accenno polemico. Oggi, quando ho visto che della vicenda di Vienna si parlava a pagina 12 del Corriere della Sera, prima c'erano 11 pagine sulle solite chiacchiere sul Covid, ho detto accidenti, proprio siamo in pieno di infodemia da Covid. Allora, ci ricordiamo che oggi è un giorno abbastanza importante, perché negli Stati Uniti si elegge il successore di Donald Trump, che potrebbe essere lo stesso Donald Trump o Joe Biden, voglio dire. Saluto con grande piacere, lo ringrazio, il giornalista e scrittore, che non ha bisogno di molte presentazioni, Alan Friedman. Buongiorno Friedman e grazie di essere qui a Radio 24. Buongiorno. Allora, qual è esattamente la posta in palio oggi? Qualcuno dice è l'uomo più potente del mondo, lo è ancora? E soprattutto ci faccia capire che posta c'è in palio al di là della Casa Bianca. Ma diciamo che sono due... di misurare questo. Uno è cosa è in palio per noi americani in America, e l'altro è cosa è in palio per l'Europa e il resto del mondo. Mm-hmm. Sul primo, diciamo che sembra esagerato, ma non credo, è in palio la nostra democrazia, perché con Donald Trump abbiamo avuto un presidente fuori legge che per la prima volta nella nostra storia non rispettava lo Stato di diritto, ha cercato di politicizzare il Ministero della Giustizia, un presidente che incita alla violenza. Stanotte, nel suo ultimo comizio, ha detto e poi ha twittato: se la Corte non mi dà ragione, dopodomani ci sarà violenza per le strade. Cercate di immaginare un presidente della Repubblica che minaccia di incitare violenza per le strade in Italia. Non esiste, ovviamente. Sì. Quindi per noi americani credo che sia una questione di nostro futuro. Vogliamo essere quell'America di una democrazia liberale che eravamo e che potremmo essere, o vogliamo essere un'America governata da una specie di Orban o Erdogan, come il modello Trump? Questo... Per il resto del mondo, sì? Invece, per l'Europa, c'è in palio la questione di stabilità politica e di economia, perché le guerre commerciali, l'azionismo di Trump è stato perdente per l'America in termini di occupazione e deficit commerciale, è stato perdente per l'Europa. Non è che i produttori italiani amano vivere sotto la spada di Damocle di minacce sempre dal Presidente degli Stati Uniti di nuovi dazi, ma soprattutto c'è la possibilità con Biden di tornare, secondo me, a un'America che si riempegna per la NATO, l'amicizia con l'Europa, il sistema multilaterale del commercio che rientrerebbe nel patto per il cambiamento climatico. Sono due visioni molto diverse. Di Trump e Biden. Cioè non ci sarebbe più l'America First di Donald Trump. Senta, no, Friedman. Sarà l'America tradizionale che cerca di non ingiornarsi davanti al dittatore, ma di essere solidale con l'alleanza NATO, che non è poco. Ha votato, come scrive oggi Ugo Tramballi sul Sole 24 Ore, hanno votato già 93 milioni di americani. 98 milioni. Sono due terzi di quelli che hanno votato nel 2016, cioè praticamente... Sono 75% di quelli che hanno votato. Questo significa che ci può essere una record di affluenza in America oggi, perché normalmente l'affluenza in America è soltanto 52%. Infatti. Il livello più alto era nel 60, quando ci fu Nixon contro Kennedy. Ma questo perché? Ce lo può spiegare? Perché è un qualcosa che magari agli italiani sfugge. Perché solo un americano su due va a votare? Si dice è una carica così importante e mediamente vanno a votare uno sì e uno no. Perché? È una bella domanda. Diciamo che a differenza della mentalità europea, della socialdemocrazia europea, che si tratta di Francia, Germania o Italia, in America votare non è considerato né un dovere né particolarmente un diritto alla metà degli americani. Non so come dire, ma c'è una apatia anche in America, che è ancora più elevato dell'apatia dei famosi indecisi in Italia, no? Mm-hmm. In Italia si dice sempre sono 25-30% indecisi o apatetico che non votano, perché in Italia è 70-75% di affluenza, normalmente, se non sbaglio. Sì. In America la metà degli americani non le vogliono sapere, ma quest'anno è diverso, perché io prevedo un record di affluenza e credo che chi vota di più sono quelli più iscritti e membri del partito. In genere si dice se l'affluenza è alta, in genere la logica e le regole favorisce i democratici. Questa è vera come... Generalmente è così. Poi abbiamo sbagliato tutto 4 anni fa, io compreso, sui sondaggi, su Hillary Clinton. Però Hillary Clinton è una persona antipatica, arrogante, proprio... poco popolare. Joe Biden è un democratico di destra, del centro-destra, non è di sinistra, e quindi la differenza oggi è un sacco di repubblicani che non riconoscono in Trump il loro partito, che è un partito liberista a favore del mercato libero, ma non autoritario, e quindi io credo che questa volta l'affluenza sarà sia democratici sia repubblicani che vogliono Trump e il loro partito e votano per la patria e non per il partito. Per Biden. Quali sono gli stati che dobbiamo tenere sotto osservazione? Sapete che in America si vota per stati, si eleggono i grandi elettori. Ecco, ci sono gli stati che ogni 4 anni sono decisivi, no? In questo caso... I famosi swing state. Swing state. Quali sono gli stati? Sarebbe stati in bilico. In bilico, esatto. Ecco, questi sono in questo momento Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Florida, North Carolina e Arizona soprattutto. Perché? Perché questi stati sono stati in cui o sono testa a testa Biden e Trump, ma soprattutto sono quei stati che fino al 2016 votavano per i Democrats, non hanno votato per Obama, ma l'ultimo voto hanno cambiato, ma con poche migliaia di voti in più per Trump, e questo ovviamente ha inciso sul collegio elettorale, che è basato su un concetto che era una volta di Enrico Cuccia, si può dire, parafrasando, i voti non si contano ma si pesano. Si pesano, certo. Certo. Senta, da che mondo è mondo si dice sempre in America, poi è l'economia che decide. Lei è un profondo conoscitore dell'economia. Lo stato dell'economia attuale americano, che cosa spinge l'americano medio a votare, secondo lei? Non è ovviamente facile e generalizzante la risposta. È stato Bill Clinton che ha coniato la famosa termine stupid. Anni 90. It's the economy, stupid. Esatto. No? È l'economia che conta. E in questo momento io credo che se Trump perde perché l'economia dopo il disastro Covid sta faticando, non tanto in termini di rimbalzo, nel senso che c'è stato un rimbalzo nel terzo trimestre, ma in termini di occupazione, in termini di ricordiamo che in America ci sono ancora decine di milioni di americani senza lavoro, e Trump è l'unico presidente dalla grande depressione del presidente Hoover degli anni 20, Trump sarà l'unico presidente che dopo 4 anni alla Casa Bianca esce con più disoccupazione che di prima. L'ultima volta che è successo era Hoover nel 29, e sappiamo che poi Roosevelt fu eletto. Quindi è la disoccupazione, è anche un senso che Trump ha negato la Covid, e anche sì, gli americani più semplici cominciano a capire che le sorti dell'economia, come in tutto il mondo, sono legate alle sorti del Covid. Mm-hmm. E se Trump continua a negare la scienza del Covid e si mostra menefreghista per quanto riguarda 230.000 morti, questo incide. Secondo me Trump perderà soprattutto per la sua non gestione del Covid, mm-hmm, e per le conseguenze dell'economia che, mentre nei primi 2 anni della sua presidenza andava bene e lui ha fatto questi tagli delle imposte che ha dato stimoli, oggi sta andando maluccio e gli americani lo sentono. Sì, l'ultima domanda che vorrei farle a Alan Friedman è questa. Sì, è vero, ci sono sempre contestazioni, conteggi, ricordiamo quello storico, insomma, George Bush, Al Gore, forse incredibile, si protrasse per mesi, però in questo caso davvero, e poi lei ha citato Trump anche nell'ultimo comizio, non ho capito perché si parla più che in passato di rischi di violenze, saccheggi, contestazioni, cioè perché la tensione sociale, certo ricordiamo anche Black Lives Matter, però non capisco come possa entrare nella questione del conteggio dei voti questo tipo di rischio di violenza. Ma questo è tutto il nostro Trump, nel senso che credo che tutti che ci ascoltano ricordano giugno, luglio, le proteste, il disordine sociale in diverse città americane, quando c'era George Floyd e Black Lives Matter, e all'epoca c'erano i squadristi di destra, milizia, armati con mitraglia, che sono pro-Trump, e Trump ha lusingato loro, gli ha dato quasi una carta bianca, una licenza di uccidere, e alcuni di questi milizia, come i Proud Boys, mm-hmm, Trump ha incoraggiato. Trump è il primo presidente degli Stati Uniti che ha veramente usato la retorica incendiaria per fomentare la violenza come tattica elettorale. Sembra bizzarro, surreale, incredibile, ma è così. Quindi un presidente che prima cerca di squalificare, rendere ineleggibile milioni di voti per corrispondenza per posta, che in America è normale, anche se è sempre strano qui, e poi dice che se le corti non lo danno ragione contro Biden, ci sono violenze per le strade, come ha detto stanotte, è un presidente che ha potenzialmente sangue sulle sue mani. Speriamo di no. Spero che ci sia un risultato chiaro e netto, ma non sarei così fiducioso. Il rischio ci può essere. Io la ringrazio Alan Friedman per essere stato con noi, giornalista e scrittore americano. La sua posizione ovviamente l'avete capita, è nota, no? Insomma, le parole dure anche nei confronti del presidente uscente, la sua posizione, alcuni criticano, altri elogiano. Questo è il bello per cui noi mettiamo argomenti nelle menti degli ascoltatori, che poi possono valutare e farsi una propria opinione. Andiamo a sentire un attimo di pubblicità, poi vorrei capire se il buon Leonardo Manera è arrivato oppure no. Non vedo dei grandi movimenti in redazione, guardo Elisabetta Fusconi, ma secondo me oggi arriva, non arriva. Leonardo Manera, eccolo qua, sta entrando in studio. Aspetta, pubblico, sono talmente emozionato. Manda la pubblicità. 1, nessuno, 100 Milan. We'll be right back. it's my new obsession. Yeah, think it's not even a question. Milan, ma tutti quelli che dicono mandiamo gli incursori, mandiamo là le truppe speciali, ma quanti film hanno visto? Hanno visto troppi film. Gli incursori, Rambo. Sette mesi per fare l'applicazione per il bonus monopattino e bicicletta. Non è durata neanche un secondo. Come prevedibile, il sito del Ministero dell'Ambiente per il bonus biciclette è già andato in tilt. Alle 9 si è aperto, prima delle 9.01 era già bloccato e continua ad essere bloccato. Provate a controllare. Devo dire che ci stanno arrivando tantissime segnalazioni, ascoltatori, sul click day per il bonus bici, tutto schiantato, scrive un ascoltatore, guardate come va l'Italia, aprite il sito per il bonus bici. Leonardo Manera, ti sei giocato la bici anche adesso. Ma io la devo cambiare la bicicletta, me l'hanno rubata 3 anni fa e non l'ho ancora, quindi posso avere un bonus? Però, attenzione, sì. Pare che il sito sia ripartito adesso, un altro ascoltatore, Fusconi, fai una cosa, bonus mobilità, senza l'accento sulla A, ovviamente, bonusmobilita.it. Vediamo. Quindi cosa devo faccio fare per avere, faccio anch'io così, come mi devo comportare e poi e vai su bonus mobilità.it, vediamo e? Un po'. E non lo so, segui le istruzioni. Sei tu un giornalista, sei un giornalista, dovresti essere informato anche sul bonus, vediamo, mobilità. A me non va. Non ti informi. A me non si apre. Si apre, no, non si apre. No, no. Bonus mobilità, no, no, sta lavorando, niente, non va. Errore. No, a te, Fusconi? No, errore, niente. Bonus. Ma mi danno un bonus? Mi arriva a casa un bonus? No, prendi la bici con il bonus, niente. Ho capito, niente. Ma come faccio materialmente una volta che riesco schiantato a connettermi? Quando riesco a connettermi, come faccio a avere... Io sono riuscito a entrare, ma tutti i dati li ha mia moglie, un ascoltatore. Ma dai! Allora... Caro ascoltatore, cioè, lui è entrato e poi... Vuol dire che la bicicletta la prenderà la moglie. No, ma la moglie non è entrata. Lui era riuscito a entrare, niente, bonus mobilità, tutto bloccato, tutto... È troppo traffico, troppa gente che vuole. Ma io oggi sono invece venuto qui perché volevo salire in metropolitana prima del lockdown, sì? Che ci sarà a Milano, si immagina, no? Pare che Milano oggi, diventerà. Domani, vedremo. Che non dici? Portare, non essere pessimista. Continuano a dire che la Lombardia ha quell'indice alto. Ma non essere pessimista, vediamo. Stanno litigando, zona rossa, stanno lockdown, questionando. Tutto bloccato. No, intanto lo ridico per l'ennesima volta. La zona rossa in questo momento è zona Piazza Ascoli a Milano, c'è una rapina in banca in corso, pare che addirittura qualcuno dice siano fuggiti nelle fogne i rapinatori, quindi insomma è una zona da evitare in questo momento, Piazza Ascoli, Via Labruzzi a Milano. Beh, ci saranno anche le forze dell'ordine, sì, immagino. Sì, è già arrivata la polizia, però insomma... Tu sei uno di quelli che vuole andare subito a vedere, a fare delle foto, il curioso. Assolutamente, sei il curioso. No, assolutamente no. Risponde a tutti quelli che dicono ma per par condicio invita uno pro Trump, ma no, cioè non siamo tenuti alla par condicio, non avrei problemi a invitare Lutwak, abbiamo sentito Friedman, non è che noi incidiamo sulle elezioni americane se sentiamo uno che è contro Trump. Io ti faccio il mio pronostico, per me vince ancora Trump. Questa è la mia idea, perché i mezzi di informazione sono abbiamo sbagliato l'altra volta, qua adesso mi sembra che siano abbastanza schierati a favore di Biden, sì, e quindi vero. Sicuramente vincerà Trump, questo è il mio pronostico. Tra l'altro, no, devo dare un aggiornamento appunto drammatico, esce adesso delle agenzie, i rapinatori dicono no, sono ancora all'interno della filiale e tra l'altro tengono in ostaggio i dipendenti della banca, ripeto, Piazza Ascoli, la banca, la filiale Crédit Agricole, non è ancora chiaro se ci sono dei clienti, ma i dipendenti si sono in ostaggio, quindi è una situazione rischiosa, certo, poi vediamo quello che succede anche a Vienna, è un periodo veramente disgraziato, devo dire disgraziato. C'è Raffaele che ci chiama da Napoli. Raffaele, buongiorno. No, è caduta la linea, non lo so. Sembra di tornare un po' con questa rapina agli anni 70. No, ma davvero, adesso uno, cioè già c'è la situazione del coronavirus, la pandemia in atto, quello che sta succedendo in Francia da un po' di tempo. Ieri Vienna, terribile, pare quattro vittime già accertate, dovrebbero avere anche ucciso uno del comando, i terroristi che ha colpito. Adesso questa vicenda di Milano, ovviamente totalmente scollegata, ma una rapina in corso in una banca in piazza Ascoli. Oh, sono tempi un po' bui. Raffaele da Milano, buongiorno Raffaele, l'abbiamo recuperata, eh? No, io buongiorno Milano, ma non sono di Milano. No, di Napoli. Sa perché stavo parlando della vicenda della rapina in banca a Milano, mi scusi, certo, Raffaele. No, da niente, Napoli, volevo semplicemente ritornare sul problema di 18 sì. pescatori di Mazara. Sì, certo. Io pongo un semplice interrogativo, premesso che non voglio fare nessuna guerra alla Libia, eccetera. Però mi chiedo, se fossero stati dei cittadini israeliani o americani, se questi paesi avrebbero aspettato tanto tempo per avere la liberazione, posto che questi libici unilateralmente hanno dichiarato 74 miglia come acque 74 miglia nautiche sì. come acque internazionali. No, non proprio acque internazionali, ma acque a interesse esclusivo economico. È interesse esclusivo, ma è stato un atto unilaterale, non c'è nessuna convenzione. Non c'è nessuna convenzione, perché le convenzioni dicono, le convenzioni internazionali alle quali tutti gli stati devono sottostare, dicono che le acque internazionali sono 12 miglia nautiche. Però, dopodiché, guardi che ieri l'ammiraglio Caffio ce l'ha spiegato, cioè uno stato può allungare la propria area a zona di esclusivo interesse economico. Certo, va riconosciuta dagli altri, ecco, perché se tutti lo fanno. Va riconosciuta perché in una comunità internazionale reggono le convenzioni, le volontà unilaterali. Quindi non è che io posso svegliarmi la mattina e dico la casa del mio vicino a fianco è casa mia, oppure l'area pubblica che sta davanti casa è casa mia. Voglio dire, insomma, ci sono sempre delle convenzioni che vanno rispettate. Certo. Quindi io mi chiedo se fossero stati israeliani, guardi, le rispondo, ma lei ha sentito Fausto Biloslavo, cioè a dire che in realtà quel giorno lì è arrivato l'allarme alla Marina Militare Italiana. Lo so, stavano intervenendo, così ci ha detto Fausto Biloslavo, dicendo arriviamo, poi quando hanno visto che erano arrivati i libici e si proponeva una situazione di confronto in mare, ma adesso se la sono data a gambe forse non esagererei a dirlo così. Hanno capito che la questione era diventata ormai diplomatica, ecco, e rischiava di diventare militare. È una questione politica. Io dico solo una cosa, non sono mai stato socialista, ma credo che se ci fosse stato Craxi al posto di Conte, sarebbe già conclusa. Con tutto che Craxi era un grande filo arabo. La politica italiana è sempre stata, diciamo, filo araba, comunque di mediazione da sempre, anche con Andreotti. Va bene, grazie Raffaele da Napoli. Allora, ripeto, aggiornamenti sulla questione della rapina in Banca Milano, dicono l'agenzia, situazione in stallo, perché ci sono i rapitori asserragliati dentro. Rapitori, oltre che rapinatori, perché hanno preso delle persone, gli ostaggi della banca, per cui dicono le agenzie si risolverà la questione o con la resa o con un intervento da parte degli agenti che si vuole escludere in tutti i modi. Andiamo al traffico. 1 nessuno 100 Milan. Ma se Manera entra in studio alle 9.35, ha una trattenuta sullo stipendio, come tutti i lavoratori? Manera, devi ascoltare la Rosciani. Se avessi ascoltato la Rosciani, ora sapresti come funziona il bonus mobilità. tanto funziona che non va al sito. Io vorrei una bicicletta, perché la mia appunto non ce l'ho più da 3 anni. Mi hanno lasciato, no neanche, ero andato in piscina con mio figlio, io con la bici e lui col monopattino. Hanno lasciato il monopattino attaccato alla catena del lucchetto e mi hanno tolto la bici. E quindi ne avrei bisogno di una nuova. Anch'io, perché non ho la ruota davanti, mi hanno tolto la ruota davanti. Comunque vediamo, bonusmobilita.it, niente, non sai che io penso di avere quanto a furti un record. Sì. Perché ho subito portafogli in piscina, ricordo. Sì, quello 2 volte, il portafoglio, una volta in metropolitana, una volta in piscina. Poi mi hanno rubato l'automobile, mi hanno rubato la bicicletta e mi hanno rubato in casa. Quindi bene o male tutto. Amici ascoltatori, allegria. Beh, in casa, non nelle 7 case, però in una casa. Dove abitavo allora, in zona Piazza Cuoco. Che altri furti rimangono così nel sa, furto del portafoglio? Mi hanno anche fatto il furto d'identità, tra l'altro. Ah, certo, è vero. Identità, portafogli, auto, bici, auto, casa. Credo basta, non c'è molto altro da rubare. Non lo so, boh. Vabbè, tanto prego, Leo, mi vengono in mente altri furti che potresti subire. Allora, in questo periodo, vista la situazione, molti fanno appello all'unità, l'unità del paese, essendo essere uniti per fronteggiare l'emergenza, essere uniti per fronteggiare il virus. Sarebbe bello se davvero potesse essere così. Spesso, è un po' un luogo comune, si dice che l'Italia sa tirare fuori il meglio proprio nei momenti difficili, ma lo si riferisce quasi sempre alla nazionale di calcio. Nel 1982, Mondiale di Spagna, nel girone iniziale, l'Italia di Berzot era molto criticata, giocava male. Per riuscire a superare il turno ci fu bisogno di un gol di Graziani di nuca contro il Camerun, gol che probabilmente nemmeno Graziani si accorse di aver fatto, se non quando si girò verso la porta difesa da Nkono, portiere del Camerun. Poi le critiche continuarono, Rossi si sbloccò, l'Italia batté Argentina, Brasile, Polonia, Germania e vinse il Mondiale. L'Italia era in difficoltà per le critiche, l'Italia poi ha saputo reagire, si disse. Poi ai Mondiali Germania del 2006 l'Italia del calcio era in difficoltà e l'Italia vinse i Mondiali facendo sembrare che perfino un giocatore come Grosso fosse un fuoriclasse. Insomma, a quanto pare noi italiani riusciamo a reagire bene solo quando abbiamo l'acqua alla gola. Quando stiamo per soccombere riusciamo ad avere quel colpo d'ala, come avrebbe detto il maestro Ruggeri, che ci permette di rimanere a galla e in qualche modo ci permette anche di vincere. Allora, se il paragone regge, dovremmo confrontare la situazione del virus con quella dei mondiali di calcio. E in effetti, nel primo lockdown, qualche somiglianza c'è stata. Il momento era di grande difficoltà, si sentiva un grande spirito di corpo, una grande italianità. Tutti a casa a cucinare la pizza, simbolo culinario del nostro paese, tutti sui balconi a cantare le canzoni tipiche della nostra tradizione, tutti a esporre quegli striscioni con scritto «Andrà tutto bene» come auspicio per un esito positivo di tutta la vicenda. Ovunque era un fiorire di «Andrà tutto bene», esposti anche su palazzi, nei quali, causa continui litigi condominiali, non si riusciva neanche a mettersi d'accordo per rifare la facciata, ma in quel caso si era uniti. E in più... E più c'erano problemi, più si cantava sui balconi, più c'erano problemi, più si facevano pizze. Le pizze lievitavano insieme all'ottimismo e alle pance per le quali bisognava allargare il buco alla cintura. Ognuno in qualche modo si sentiva responsabilizzato e anche protagonista, anche solo una canzone da far sentire in tutta la via. Ma i mondiali di calcio durano di solito 1 mese. Invece questa emergenza è già 9 mesi che continua. Grosso, una volta finiti i mondiali, tornò ad essere un giocatore normale e non quel fuoriclasse che sembrava essere ai mondiali. Gli striscioni sono cambiati, se ne vedono pochi con scritto «Andrà tutto bene», se ne vedono molti con scritto «Andrà tutto all'asta». I virologi che in questi mesi ci hanno detto tutto e il contrario di tutto ci hanno confusi ancora di più, come se la nazionale di calcio nel corso di un solo mondiale avesse cambiato 3 o 4 allenatori, 3 o 4 moduli di gioco. E la classe politica, che è o dovrebbe essere sempre per metafora la nostra nazionale, non dà proprio l'idea di avere un Rossi tra i titolari. Si vedono molti giocatori, anche buoni e volontarosi, Alcuni mi ricordano Francesco Coco, difensore che incredibilmente finì anche in nazionale e partecipò alla spedizione mondiale in Corea del 2002, che peraltro finì malissimo. Ecco, sarebbe bello evitare un'altra Corea e trasformare tutti i Coco in fuori classe, almeno per un po', almeno fino a quando arriverà il vaccino. Ricordandoci che però in questo periodo tutti i Francesco Coco non sono solo i politici e i virologi, ma lo siamo un po' anche tutti noi. Mi fa notare il buon Peter Biscabelli che Francesco Coco ha giocato anche nel Barcellona. Sì. Nel Barcellona. Sì, però io Coco me lo ricordo più per le sue avventure sentimentali, sì, che non per le prestazioni. Beh, sul rettangolo verde. Milan, lo so. Nel Barcellona. È incredibile questa cosa. E forse anche altre. Forse nell'Inter, anche altre nell'Inter anche. Anche nell'Inter. Sì. Vabbè, ma l'Inter noi non lo consideriamo tanto. Vabbè, dai. Dovremmo farlo perché è l'anno dell'Inter. Giornale radio e poi rientriamo con voi. Tutti i mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti i mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Uno, nessuno, 100 Milan. Leonardo, buongiorno, hanno anche tentato di rubarti i contributi. È vero. Ma Nera, se non hai lo speed e la fattura della bicicletta, non te lo danno il bonus. Ma ci credo che non riuscite ad accedere. Il sito è Buono Mobilità, no Bonus Mobilità. Questo è vero, ma in realtà non funziona. Però adesso siamo, allora, qualcuno mi dice è entrato, anche noi adesso siamo in coda. Sapete quanti utenti abbiamo adesso davanti a noi e la fila c'è scritto non diminuisce in questo momento, è in pausa. Sai quanti utenti abbiamo prima di noi? Non so, sarà una quindicina, 20. 369.127. Vabbè, ma tu che non vuoi la bicicletta, ma perché vai a intasare ulteriormente il sito? È vero. Con gusto veramente da scuola media. Dici, andiamo a intasare ancora di più. Sto facendo lascia il lavoro che bonus vada verifico a se chi funziona. L'ha richiesto, a chi ha già comprato la bicicletta, a chi ha lo speed, a chi ha lo scontrino. Cos'è lo speed? Poi? Lo speed l'identità. Identità elettronica. Elettronica. Lo speed. Speed di Gonzales, è quello. Esatto, sì, non si direbbe visto come ci sono milioni di segnalazioni anche su Twitter, eccetera, che raccontano di e tra un l'altro, blocco, un disastro. Tra l'altro, quasi tutti quelli che intasano sono giornalisti che stanno andando a verificare. No, ma infatti. Sono tutti giornalisti. Io esco, ho fatto il mio dovere, adesso non intaso, non ho comprato la bicicletta, quindi non ho fatture, non ho speed, non ho neanche lo speed, non l'ho ancora fatto e quindi non. Come dire. Non c'entro nulla io in questa situazione, me ne vado. No, si è liberato un posto. Mi ritiro in bolla. Adesso sono 369.126, tranquilli, quindi c'è chi scrive prendo due settimane di ferie e poi toccherà. Perché è esaurimento il bonus. Esaurimento, sì. Cioè, non chiedermi quanto, lo sa Deborah Rosciani, chiede Deborah Rosciani, ma non è che tutti hanno diritto, c'è un esaurimento di fondi e poi dopo, se chi il primo che arriva o i primi che arrivano pedalano. Gli altri pedalano ma pagandosi totalmente la bicicletta. Hai voluto la bicicletta, non pedala, ma stai paga, in coda. Stai in coda. Claudio da Milano, buongiorno Claudio. Buongiorno. Eccoci. Volevo solo avvisare che tra le altre buffonate italiane. No, non iniziamo con le buffonate italiane. A proposito di app, sì? Oggi partiva l'app Saluti le prenotazioni della regione Lombardia. Vediamo, andiamo a intasare anche questa, sto scherzando. No, non funziona. Per la prenotazione del vaccino antinfluenzale. Saluti le prenotazioni. Saluti le portale prenotazioni app Saluti. Vediamo, entro. Deve registrarsi, deve mettere un codice. In diretta non ce la faccio. No, qual volevo è il problema? Solo dire, il problema è che da oggi partiva la prenotazione, sì, per il vaccino antinfluenzale degli over 65, sì, e già oltre a non dare nessun risultato, non se funziona. Si entra nel sito della regione, dice che questa app sarà sostituita e bisognerà registrarsi in una nuova app del ministero. Lei, Claudio, credo che abbia più di 65 anni. Se 69. Quindi è entrato stamattina. Cioè... Sì, no, me l'ero già scaricata stamattina, sto provando. Ma non ho capito, cioè non funziona o dicono questa cosa che verrà cambiata? No, nella app a un certo punto non dà neanche più la voce vaccino, cioè il vaccino meningococco, bla bla bla, sì, il vaccino antinfluenza non esiste nemmeno più come voce della scelta, sì, e poi da errore, poi se va nel sito della regione dice che non so quando, magari già da adesso, io sono in giro per cui non ho più provato, ci sarà una nuova app per cui un'altra ridicolaggine. Sì. Lei l'ha richiesto anche al suo medico di base il vaccino? Sì o sì, è proprio lui che hanno esposto questo modulo della regione, che o fai 800-638-638, sì, oppure ti registri su questa app e provi col numero verde. Provi col numero verde. Vuole provare da fisso occupato, sa quando mette giù la cornetta che dà quel du, sì, ecco, è così. Vabbè, guardi, la ringraziamo. Adesso io lo so, magari adesso ci scriveranno dalla regione a dire funziona. Questa è l'esperienza che ci ha raccontato Claudio da Milano. Spero che altri ce la facciano. C'è chi scrive su Twitter: sono entrato nel bonus buono mobilità. C'è chi ci scrive e invece il bonus bicicletta va ad esaurimento nervoso. Comunque quello della prenotazione dei vaccini è un problema per molti in molte regioni, sì, insomma. Sì. Anche perché adesso, anche normalmente senza coronavirus, questo è il periodo novembre in cui si sarebbe comunque cominciato a fare il vaccino. Allora, buongiorno, sono online in coda per accedere al sito di mobilità. Dopo un'ora di attesa esce il messaggio in cui dice che la coda è sospesa. Giulia da Sesto San Giovanni. Vedete, sono, diciamo, statisticamente maggiori il numero di persone che stanno riscontrando qualche problemuccio. Va bene, sentiamo che ci vuole dire Giovanni da Savona. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Io prego. Sì. Parlavo di nuovo per i pescatori. Sì, i pescatori di Mazara, bene, mi interessa. Io ho fatto il militare in marina e andavamo a fare la guardia ai pescheregi, perché nella zona c'era una zona che si chiamava il Mammellone. Sì. Era una zona di bassi fondali che era dedicata, diciamo, come salvaguardia per la riproduzione del pesce. Chiaro, ce l'ha spiegato ieri anche l'ammiraglio Fabio Caffio, il Mammellone, ecco, sì. E noi eravamo alla nave, venivano chiamate la Vigna in codice perché i pescheregi non sapevano chi. E i tunisini li sequestravano. Sì. Per quando trovavano una nave, un peschereggio italiano lì in quella zona. E noi invece prendevamo il numero di matricola, si comunicava alla capitaneria e poi ci facevano la multa sia a pescheregi italiani che tunisini, perché lì non potevano pescare solo quelli autorizzati con le reti a maglie larghe, queste cose qua. E lì abbiamo avuto anche dei scontri abbastanza che adesso perché ride? Gli scontri non saranno stati simpatici. No, infatti, perché questi le motovedette tunisine, per cercare di, perché allora succedeva questo: arrivava la motovedetta tunisina, il pescherese chiamava la vigna, currite. E noi si correva per cercare di impedire il sequestro. Chiaro. Se riuscivamo a affiancarci al peschereggio, due marinai, due diciamo sottufficiali, saltavano a bordo e quindi quando c'erano i marinai allora lasciavano perdere, perché sarebbe venuta una cosa troppo... Certo, perché sequestrare un militare... Esatto, un militare era più complicato. Eppure loro cercavano perché in genere non in due le motovedette, una si metteva davanti a noi, zinzagava, per cercare di farsi rallentare in modo da non raggiungere il pescherese, no? Cioè una vera e propria, chiamiamola piccola guerra. Sì, no, una volta, io adesso poi questa cosa mi è sempre rimasta impressa perché abbiamo mandato i cannoni in punteria, che erano cannoni che... Non li sbagliavi, insomma, certo. In automatico seguivano la nave, ecco, cioè, perché erano per contraerei, figuriamoci una Ma questa è la sua esperienza sul Mammellone con i tunisini, ma qui dalla sua esperienza, Giovanni, quindi che succede? Una volta che non interveniamo subito, poi la situazione si crea, questa situazione così di stallo. No, credo che non si siano attaccati ancora a questa cosa, non so se funziona ancora, se c'è ancora, per avere le una scusa per poterli sequestrare, ecco, io non so, ecco, forse. Ma io intendevo, siccome Fausto Biloslavo ci ha detto che l'allarme sarebbe stato lanciato alla Marina Militare Italiana, che è un po' come Lavinia, no? Arriviamo, poi quando hanno capito che ormai erano arrivati i libici, per evitare quel tipo di confronto che lei ci ha raccontato si faceva con i tunisini, non l'hanno fatto, ecco. Magari un'azione, chiamiamola di forza, come quella che lei ci ha raccontato, sarebbe stata efficace per far desistere. Sì, allora poi sì, finiva tutto lì, diciamo, noi si rientrava e finiva. I pescherecci si allungavano due cassette di pesce che mangiavano gli ufficiali. Certo, ovviamente per ringraziarvi l'intervento. Mentre invece quando noi prendevamo il numero e mandavamo, vabbè, perché anche gli italiani gli facevano la multa. Voi mandavate la multa a Tunisi e questi? Questi non gliela facevano. Invece l'italiano sì, perché noi la mandavamo a Mazara o a Trapani, secondo la capitaneria di dipartimento, e loro gli italiani gliela facevano la multa. Vabbè. Allora ci maledivano, vabbè, ce ne dicevano di tutti i colori. Perfetto. Però grazie Giovanni da Savona. La ringraziamo. Beh, ci ha raccontato, caro Leonardo, questa esperienza di vita vissuta. Lui. Bello, tra l'altro. Bello, facevano. Bello non per lui, perché finiva che. No, poi bello il racconto. Perché gli ufficiali, lui che non lo era. La vigna, corrite! I pescatori che chiamavano la marina. Bello, e il pesce che andava sempre agli ufficiali. Vedi, alla fine la vita è sempre così: alla in mare, fuori dal mare. Il pesce va agli ufficiali. Potrebbe essere un proverbio. Il pesce, o il titolo di un romanzo. Il pesce va agli ufficiali. Ci vorrebbe qualche siciliano che ci dice come si dice in siciliano questa frase. Il pesce va agli ufficiali. Se c'è qualche siciliano in ascolto, ce lo dica, ce lo scriva, telefoni. Eh sì. Va bene, dai, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Guarda al futuro con Italiana Assicurazioni. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Nera, sono in coda per il bonus biciclette, ho davanti 169.922 persone, e vai! Penso che sia uno dei più fortunati in questo momento. E invece io credo che sia una cosa buona, perché siccome ci avviamo verso un periodo in cui dovremo stare a casa, almeno abbiamo qualcosa da fare. Sì. Anzi, io ringrazierei chi ha creato questa coda, perché invece che stare a casa, appesantirci, stare davanti alla TV, possiamo fare qualcosa anche di utile, occupando anche il tempo in modo proficuo. Comunque è notorio che noi siamo due cialtroni, parlo soprattutto per il collega che sta qui alla mia sinistra, ma Deborah Rosciani alle 11 svelerà tutti i particolari, proprio perché la puntata di Due di Denari è dedicata soprattutto a questo, il bonus mobilità. Quindi Secondo me chi ascolta il programma di Deborah Rosciani scala almeno 10.000 posizioni nella lista d'attesa. Hai fatto un teaser, dicesi teaser, una teaser, specie di promozione, così per incuriosire per la puntata che verrà. Alle 10.30 Deborah Rosciani dovrebbe ringraziare quando ci dirà come va la borsa. Vediamo, non so se è lei che fa la borsa oggi, prima era Maria Luisa Pezzali, adesso va bene, dopo allora magari quando c'è la borsa la sentiamo anche la nostra Deborah per capire. Dovrebbe magari dire grazie Alessandro Leonardo che state facendo promozione al mio programma, magari portarci lei, anche un regalino. Magari è lei che sta intasando. Ma tutti intasano i giornalisti, andiamo a vedere se è vero che si intasa così. Gente che non userà poi mai la bicicletta, tra l'altro, perché hanno tutte le automobili anche abbastanza di lusso. Sì, sì, sì. Va bene, dai, adesso è uscita questa notizia, è uscita sui vari giornali, è stata ripresa anche dall'ANSA, di una studentessa che non ha passato la maturità, ma sono vicende che di tanto in tanto escono. Ha fatto evidentemente causa perché parlava di uno stato depressivo legato anche al Covid. E c'è stato il pronunciamento che le dà ragione a lei, dà ragione all'avvocato che è la difesa, che è l'avvocato Enrico Martinetti, che è qui con noi e che ringrazio. Buongiorno avvocato, grazie. Buongiorno a voi. Allora, ci spieghi la questione, perché ne sentiamo tante di vicende legate a studenti che non vengono promossi e poi fanno causa. Perché questa ragazza potrà, la studentessa padovana, rifare l'esame di maturità? Ma sostanzialmente perché la scuola in sede di esame di maturità non si è fatta carico della sua condizione, che in gergo si definisce bisogno educativo speciale, acronimo BES, sì, ovvero una situazione di disagio psicofisico connesso a delle serie problematiche di salute che la ragazza ha avuto nel corso del ciclo di studi in questa scuola superiore di Padova. Mm-hmm. In particolare la ragazza aveva rappresentato anche tramite lo psicologo della scuola questa sua situazione di profondo disagio. La scuola, diversamente da ciò che impone la normativa di fonte ministeriale, non ha predisposto il cosiddetto piano didattico personalizzato, sì, ovvero un piano scolastico con misure compensative e dispensative per facilitare, diciamo, l'iter scolastico, sì, della ragazza. Sì, ricordiamo, sono tanti gli studenti che hanno appunto bisogno, hanno questi bisogni educativi speciali, l'acronimo è BES, ma questo è dovuto al fatto che, essendoci la didattica a distanza da marzo, insomma, fino alla fine dell'anno, e quindi non in presenza, non si riusciva a garantire questi bisogni educativi speciali? No, la scuola non ha assolutamente accampato questo tipo di motivazione. La scuola nel primo grado di giudizio ha eccepito che, diversamente dal vero, come riscontrato poi dal Consiglio di Stato, la famiglia non aveva rappresentato con la dovuta documentazione medica questa situazione di criticità a livello psicofisico, cosa viceversa che era stata ampiamente dimostrato con le cartelle cliniche che la famiglia aveva nel corso degli anni presentato alla scuola. Mm. Quindi cosa farà? Rifarà, cioè, una commissione esterna, rifarà la maturità? È interessante, cioè, perché il Consiglio di Stato, perché nel frattempo aveva iniziato di nuovo la quinta. Stiamo parlando di un liceo? No, in realtà era parcheggiata fiduciosa in attesa del buon esito del giudizio, quindi in realtà non ha rifrequentato la stessa classe. No, adesso il problema si pone in questi termini: i giudici del Consiglio di Stato hanno ordinato la rinnovazione della prova orale dell'esame di maturità, perché come sapete quest'anno la maturità, all'anno scolastico 2019-20, era solo una prova orale, però il problema a questo punto è, con il lockdown in corso, si tratta di capire se l'esame di maturità dovrà essere rinnovato da remoto o in presenza. Quindi al riguardo con un'altra commissione, immagino. Cioè... Certamente noi abbiamo chiesto e ottenuto dal Consiglio di Stato che venisse l'esame rinnovato con una commissione. Temete se no qualche diversa, tipo di così, parliamo di ritorsione. Per evitare qualunque pregiudizio, come pregiudizio, purtroppo l'esperienza insegna. Va bene, avvocato, ma ne ha tante di queste cause, cioè è la prima volta che si cimenta in questo tipo di cause, perché anni fa non c'erano, no? Questi ricorsi legati alla scuola. Sì, diciamo che è un contenzioso crescente in conseguenza di questa normativa di fonte ministeriale che pone attenzione agli studenti bisognosi appunto di misure compensative e dispensative per problematiche psicofisiche, cose che una volta non erano prese in carico dalle istituzioni scolastiche. Sì, sì. Sì, diciamo effettivamente, Leonardo Manera, ai nostri tempi non c'erano proprio questo tipo di cause. Adesso... Quindi per lei è la prima volta o ne ha già gestite altre? No, non vi ricordate, mi avete già contattato per un caso qualche mese fa per una avvocata. Studentessa piemontese che si è specializzata per ben due volte la maturità, no. Esito finale al terzo tentativo positivo. Vabbè, insomma è una specializzazione che sta mettendo a punto, avvocato. No, scherzo, la ringrazio comunque, segno che laddove ci sono sempre, ho sbagliato tutto, dovevo laurearmi e farla avvocato, perché viviamo in un mondo dove ci sarà sempre più bisogno di avvocati, sempre più cause. Ho sbagliato tutto. Aveva ragione mia madre, mi diceva: Leo, finisci di studiare. Rinuncia a fare gli spettacoli e finisci di studiare, mi diceva. Ah, quindi tua mamma non era tutto rinuncia, no. Agli studi no. No, agli studi no, ma nessuna mamma ti dirà mai di rinunciare agli studi. Vabbè. La mamma, quando diventa mamma, immediatamente dice: studia. Ringrazio anche la collega Valentina Valdisserri che mi scrive, amica e collega, che lei è al numero 113.546, cioè in lista d'attesa prima di lei. Io vorrei conoscere qualcuno che ne ha solo 50 in lista d'attesa. In questo momento ci potete scrivere, o forse se uno ne ha 50 non sta lì attaccato al computer e non sta a perdere tempo con noi. No, vorrei saperlo, cioè chi ne ha, non so, 1000 davanti, so 580, che uno vede la meta davanti. Ci sarà il numero 1 in lista d'attesa, il numero 2, il numero 3? No, non credo. No, partono dal 100, sì. Dal 110.000. No. Adesso c'è la borsa, io mi aspetto che Deborah, ecco, Rosciani ci ringrazi, Rosciani, perché è in linea. Stiamo facendo grande pubblicità al suo programma. Al suo programma, che si occuperà di questo bonus mobilità. Pare stia andando a meraviglia, cara Deborah. Guarda, ve lo saprò dire fra una mezz'ora circa, vediamo se c'è il famoso Crash Day. Pare che il Ministero dello Sviluppo Economico abbia istituito per una task force per gestire. È vero che la bicicletta la dovevo già aver comprato prima, sì, per avere il bonus bicicletta, no? L'ho capito Deborah. Perfino io credo di sì. Senti, non posso procurarmi uno scontrino falso, finto, ecco, e fingere su questo mezza. Devi chiedere a me, esatto. Salutiamolo anche Deborah Rosciani. Salutiamo Mauro Meazza, che ha sempre questa nomea. Quando il dispiace. Gatto non c'è, i topi ballano. Deborah, guarda che ti segnalo, almeno da quando abbiamo iniziato la trasmissione, ci sono arrivati almeno 100 messaggi già che parlano di disastro, crash, 300.000 in attesa. Ci sono risorse per accontentare 600.000 persone che hanno fatto l'acquisto, ma si calcola che già nella prima fase, quando il provvedimento è stato annunciato, già almeno 1 milione di biciclette siano state vendute. Certo. E dove li mettiamo tutti questi? No, ultima domanda, Deborah. Non riescono, sì, poi questa intervista la ringraziamo, ministro Rosciani. Aspetti un attimo, volevo sapere cosa. Lo sviluppo economico, mi piace. Volevo mi piace. Sapere cosa posso comprare adesso per avere poi un bonus che ipoteticamente ci sarà più avanti, secondo te, se tu hai delle informazioni in merito. No, non mi mettere in difficoltà, ma bonus in che senso? Per qualunque categoria, sì, qualsiasi merceologica? Sì, esatto, sì, io voglio avere un bonus. Polvere, poi magari danno... Mi piace l'idea nella vita di avere un bonus per qualcosa, cosa posso comprare? Ma guarda, mi pare che adesso non ci sia tanta trippa per gatti, bonus, sempre per utilizzare la categoria degli animali. Non lo so, fammici grazie, pensare, te lo dico alle 11, mi hai messo in difficoltà con questa domanda. Preferisce ministro o ministra? No, ministro, a me ministro, proprio la categorizzazione di genere mi fa venire l'orticaria. Ministro Deborah Rosciani, la ringraziamo, la lasciamo. Prego. Proprio alla borsa. La ringrazio. 1, nessuno, 100 Milan. Sì, pensava che mettersi in coda per un bonus per le biciclette in Italia con 70 milioni di abitanti ci fossero tre persone davanti, non ho capito questa cosa. E poi bello che ci siano tante persone che vogliono approfittare di questa cosa per conseguire la mobilità in bicicletta. Cioè, cos'è? Dov'è la stranezza? Traducendo dall'italiano al siciliano, i pisci soffuttano tutto l'ufficiale. Allora, abbiamo scatenato questa cosa. Adesso c'è un ascoltatore che ci sta dicendo: io mi fido, caro ascoltatore, che ha solo 131 persone davanti a lui in attesa per il bonus bicicletta. Un altro 132, però da mezz'ora sempre 132. Beh, ma allora vediamo, questo mi manda lo screenshot effettivamente. Eccolo qua, il numero di utenti in coda davanti a te è 132. Pensa, caro ascoltatore, quanto ti staranno odiando quelli che ci scrivono. Ne hanno 130.000. Questo ha 132 davanti. Ma poi la gente che mi scrive ridete del sito per il bonus bicicletta, ma non stiamo ridendo, stiamo sorridendo, nel senso che ne stiamo parlando. Molti sono lontani nella fila, altri invece... Tra l'altro la cosa brutta è che tu ridi di quelli lontani, cioè deridi quelli che hanno molta coda da fare. Ma non sto ridendo, sì, sto sorridendo. Di quelli, mamma mia, non dal numero 50, non dal numero 50, può, ma tu ridi del numero 300.000, come dire stai lì in coda tutto il giorno. Ma non si può, è basta, così. Non si può... Non sono, di quelli che sono vicini, ma di quelli lontani, questa molto, è la cosa brutta. Sono molto dispiaciuto per coloro che stanno a sito 300.000, ma abbiate fiducia. Ma dai che non è una cosa tutto. Grave. Se siete lì in coda vuol dire che alla fine pensate di andare in bicicletta, quindi siete in buona salute. Infatti, infatti. Adelio da Genova. Peccato credo che per un po' non si potrà uscire con la bicicletta, sì. Ma a parte questo. Credo che chiami su questo. Adelio, buongiorno. Buongiorno, io volevo contestare, farvi conoscere una cosa molto curiosa. Tutti quelli che sono nati nelle nuove, che sono nati nelle vecchie province, sì, e risiedono e hanno sui documenti i dati della nuova provincia, non possono richiedere lo SPID, perché quando il computer arriva, nel mio esempio, io sono nato a Lierna, quando sono nato io ero in provincia di Como. Sì. Oggi sul documento c'ho scritto prima avevo scritto Lierna, provincia di... ha cambiato la provincia. No, cioè adesso... la prima non me lo facevano perché sulla tessera sanitaria avevo scritto nato in provincia di Como. Lierna, provincia di Como, sulla carta d'identità nato Lierna in provincia di Lecco. Adesso non me lo fanno, perché ho rifatto la carta d'identità perché era scaduta e mi hanno messo nato Lierna in provincia di Como. Quando è entrato in un baco burocratico pazzesco. È incredibile, quelli che fanno le leggi non sanno neanche cosa scrivono, gente che guadagna signori stipendi però non sanno quello che scrivono. Sì. Ora cosa succede? Quando stanno facendomi lo speed, succede che quando arrivano a nato a Lierna, provincia di Como, come sì, c'è sui documenti, si blocca tutto perché Lierna non è in provincia di Como, ma in provincia di Lecco. Ragazzi, ma come ci sono delle situazioni dalle quali non si può uscire. Rinunci, è capitata, guardi. Rinunci, Adelio. Ma scusi, ma se lei va alla posta, se lei va alla posta o all'INPS, sì, non glielo fanno lo spazio. Sì, sì, sì. No, è che vorrebbe evitarlo. Ma come? Ci sarà un modo per... No, da certe situazioni non si esce, rinunci, guardi, glielo dico io, rinunci. Non... Infatti io poi se avessi... Io non volevo fare nessun buono, però ho detto, dato che lo speed dovrebbe servire per altre cose, per comunicare, certo, direttamente... Certo. Cioè, scusi, mi faccia capire, lei in questo momento nessuno ufficiale dello Stato... le può fare lo speed, non ci credo. Esatto, sono stato in posto, sono stato in due o tre posti, nessuno, perché quando arrivano a scrivere nato a Lierna, provincia di Como, come c'è sui documenti, dicono no, lei non lo può fare perché Lierna non è in provincia di Como. In provincia ho capito, di Lecco. Ma lei dice, ma io che cavolo me ne non frega? No, guardi, rinunci, non uscirà mai da questa situazione, glielo dico io. Cioè, Cioè, ci credo, guarda, ma non ci voglio credere. Ci sono situazioni dalle quali non si esce. Ne è capitata una a me ieri. Sì. Allora, dovevo fare il... Sei uscito però, sei qua oggi. Dovevo fare il telepass intestato alla mia partita IVA. Sono andato al punto blu. Sì. Mi hanno detto, per fare il telepass intestato alla partita IVA, deve fare la richiesta in banca di averlo. Io sono andato in banca, mi hanno detto... Però, mi hanno detto lei può fare la richiesta in banca solo se in banca ha un gestore finanziario, non può chiedere la cassa, ma io in quella banca non ce l'ho il gestore finanziario, ma mi hanno detto senza gestore non può fare la richiesta del telepass intestato a partita IVA. Là mi hanno detto che dovevo farlo tramite la mia banca, quindi non se ne esce. Rinuncio. Allora, date una soluzione a Manera, sicuramente ci sarà un modo. Per esempio, l'ascoltatore che prima ha detto non funziona l'app per il vaccino e l'ha chiesta al medico, molti ci hanno scritto no, ritorni dal medico, perché il medico è tenuto, il medico di base, a prenotare per lui il vaccino, non che il medico gli abbia io non lo so. Io molte dico che ci sono situazioni dalle quali dal punto di vista burocratico non si può uscire, quindi meglio rinunciare. Ma scusa, lei lo risolve facile. Qualcuno vuol spiegare a Manera come oggi, fare infatti, no. Il telepass abbinato alla partita IVA pur non avendo un gestore in banca? Secondo me oggi andrò ancora in banca, infatti torno in banca a capire un po' come si può fare, però secondo fatti me in certi gestore, casi fatti un gestore, cercherò fatti di un farmi un gestore. Pietro da Ravenna, buongiorno Pietro. Buongiorno, saluto ragazzi. Saluto, bene? Benissimo, grazie Fe, sperando bene. Chiamo per fare una segnalazione. Io conosco una signora che abita a Milano, che ha 99 anni. Sì. E già alla sua venerante età va una volta alla settimana ad insegnare, dare lezioni di francese all'Università degli Anziani di Milano. Cioè insegna a 99 anni? Insegna, sì, a 99. Fa 100 anni a maggio. Mm. Ed è una signora che viene sempre tutti gli anni qui a Marina di Ravenna, ci conosciamo, sì, e siamo diventati quasi parenti perché abbiamo molte cose in comune. Ma lei perché ce la, ce la segnala? Perché? Io vi do il suo numero, lei vi ascolta tutti i giorni. Ah, cioè la signora ci ascolta oltre che lei? Tutti i giorni, tutti sì, anche io vi ascolto quando posso. E allora ci dia il suo numero di telefono. Sì, ma non qui in diretta. Vabbè, no, anche no, se vabbè, vuole, faccia pure, no, ce lo dia no, in diretta. No, adesso, no, non lo dia in diretta, no, non possiamo farlo, sennò la gente... Vi dico il nome. Ma perché ci vuole dare il nome? Per chiamarla? Vuole che la chiamiamo? Per chiamarla, perché ce la chiamaste. Intanto come si chiama, il nome lo può dire? Si chiama Maria Polloni. Maria. Abbiamo già Maria. Bello, noi abbiamo già Maria 92enne da Roma, potremmo 99, fare Maria. Sì, 99 da Milano. Allora Pietro, facciamo così, mi ascolta. Adesso non metta giù, la nostra Elisabetta Fusconi riprenderà la telefonata e dia il numero a lei, non possiamo darlo in diretta a tutto il mondo. Va bene, Leonardo, è posso essere per giovani, il tuo gestore? Sì, esatto, scrive. Ci rivolgiamo alle nuove generazioni. Yeah, Radio Next Gen. C'è Arianna che scrive: posso essere il tuo gestore? Quindi ti abbiamo già trovato volendo un gestore. Grazie Arianna. Scrivi, manda qui la tua mail che a me lo hanno fatto al punto blu con partita IVA. Vedi, un ascoltatore, perché poi Leonardo Manera si mette sempre in questa situazione kafkiana. È stato molto gentile, a me lo tra l'altro. Fatto al punto blu con la partita IVA. E a me no, nel senso che io devo fare uno switch, un cambio di intestazione del telepass. Mi hanno detto: guardi, devo fare la richiesta alla banca. Alla banca. Ma sei andato alla banca dove hai il conto corrente? Sì, sì. Però non hai un gestore finanziario. Lì in quella banca no. In un'altra banca no, sì. No, un gestore diciamo mio personale. Vabbè. Meazza. Mauro Meazza. Traffico. 1 nessuno 100 Milan. Buongiorno Milan, io direi di cacciare Vestaglia da Mascata Manera e prendere Rosciani. Mamma che voce. Questa mattina ero il 1200 e quando poi è arrivato a zero il sito ha crashato. e quindi adesso siamo al 234.866. Ma no, dai. Milan, a gettar fango sei il numero uno, ma non ti conviene fare solo lo showman e restituire la tessera da giornalista? Vabbè, però dovete essere un po' più specifici. Cosa ho detto? Non lo so, non lo so. Rimarremo nel mistero, non ci dormirò la notte. Oh, mi chiedono di ripetere il nome dell'avvocato che si occupa della scuola. L'avvocato Enrico Martinetti di Padova. Ma non è che si sta specializzando sul tema scuole, bocciature. Però l'abbiamo già chiamato Enrico Martinetti di Padova. Avvocato, cercatelo se avete dei problemi. Però adesso è tornato a trovarci, lo ringraziamo molto, il ministro Bonetti. Bonetti di nome, ministro? Antonio Bonetti. Scusi, perché non abbiamo... che è stato tra l'altro nominato come consulente per gestire l'emergenza sanitaria. Sì, allora, esatto, grazie. Ministro Bonetti, cosa dobbiamo aspettarci allora del prossimo DPCM che arriva, arriverà? Ma la ringrazio per la domanda. Per prima cosa vorrei precisare che noi non lasceremo indietro nessuno e che bisogna vincere la sfida della ripartenza. Ma veniamo alla domanda. Alla luce di un'attenta e realistica considerazione del delicato equilibrio sul quale si regge il sistema paese, supportati da un rafforzamento nello sviluppo delle strutture che garantiscono la partecipazione di un gruppo importante nella formazione delle nuove proposizioni, abbiamo cercato di orientarci verso una soluzione in grado di rendere compatibili le esigenze delle attività produttive con la crescente pressione ospedaliera. Quindi, ripristinando la puntuale corrispondenza tra obiettivi e risorse, abbiamo introdotto, introdurremo nel nuovo DPCM l'obbligo di tenere tutte le finestre aperte dalle ore 15 alle 15.30. Perché? Voglio precisare una cosa, perché sappiamo che sarà il punto più dibattuto. Sì, tenere aperte anche le finestre del bagno. Ma... pertanto, sentito il parere del Consiglio Superiore della Sanità, invitiamo i cittadini che soffrono il freddo a fare la doccia in un altro momento. Quindi dalle 15 alle 15. Sì. Senta, ministro, ci spieghi meglio, perché tenere le finestre aperte dalle 15 alle 15.30 dovrebbe contenere il virus? Purtroppo questo virus corre molto velocemente, quello che noi possiamo fare è cercare di capire come sviluppare un modello di riferimento condiviso da tutte le forze in campo, tenendo conto che la realizzazione dei doveri del programma svolge un ruolo essenziale nella formazione del sistema della partecipazione generale, perché se è vero che le premesse iniziali possono appianare le discrepanze esistenti sul piano sociale, è altrettanto vero che dobbiamo tenere in considerazione come la pratica della vita quotidiana dimostri che la complessità e la collocazione degli studi, degli organici, rappresenti un tentativo interessante di verifica delle direzioni di sviluppo per il futuro. Ed è per questo, mi lasci completare la risposta. Prego. Che nel nuovo DPCM introdurremo il divieto di saltellare sul posto nel weekend. Sappiamo che stiamo chiedendo un altro sacrificio ai cittadini, ma dobbiamo rinunciare a saltellare sul posto per la salute di tutti. Scusi ministro, cosa c'entra il virus con il saltellare sul posto? Il tema non è tanto saltellare o non saltellare, semmai è importante valutare i rischi e le prospettive che ci vengono offerti dai meccanismi in vigore, considerando le variabili che ne consentono la fattibilità, ma dal momento che diamo valore alla tutela dell'organizzazione, non possiamo non tenere conto delle discrasie esistenti. Tuttavia noi crediamo sia importante avviare l'azione generale di formazione delle attitudini mantenendo una visione strategica ma orientata all'ottimismo. Perché dobbiamo sempre ricordare che con l'impegno di tutti ne usciremo. Sì. E quindi con il nuovo DPCM abbiamo scelto di introdurre un limite massimo per lo zucchero da mettere nel caffè. Ma perché? Cioè potremmo usare al massimo il 50% della bustina. Bustina che può scendere al 25%. Ma perché queste percentuali? Nelle regioni in cui il virus circola di più. Ma perché il 25%? Vede ministro che anche lei non mi sembra molto d'accordo con questa decisione. Crediamo fermamente che sia una... visto. Anche lei, ministro. Crediamo che sia una proposta di buon senso. Mi sembra un po'. Che ci aiuterà a contenere il virus e anche la glicemia. Allora, rinunciamo allo zucchero oggi per tornare. Per tornare a zuccherare domani. Non mi sembra che il ministro Moretti, che comunque io ringrazio, scusate se mi viene un pochino da ridere, può sembrare irrispettoso verso un membro del governo, verso un'istituzione, però devo dire che grazie ministro, vedremo questo prossimo DPCM. Com'è lo slogan? Allora, riduciamo lo zucchero. Zucchero oggi per tornare a zuccherare domani. È uno slogan così, rimasto a metà. Riduciamo lo zucchero oggi per tornare a zuccherare domani. Vabbè, ministro Antonio Bonetti, alla prossima. Noi concludiamo questa puntata di Uno Nessuno 100.000. Grazie a voi. Grazie. Domani alle 9, domani mattina alle 9, non alle 10 e mezza!